Tutto il mondo ama ricordare i grandi personaggi del passato che hanno fatto del bene. È per questo che tante strade portano il nome di grandi personaggi. È per quello che ci sono in giro targhe commemorative o addirittura statue. E la Chiesa fa la stessa cosa, facendoci ricordare i grandi santi, i grandi personaggi. Oggi, per esempio, ci fa commemorare un grande santo della carità, San Vincenzo de Paoli, che purtroppo non è molto conosciuto, ma è uno di quelli che lasciano il segno nei secoli. Ci sono tanti santi, no? C'è il santo magari conosciuto in un paese, è un santo. Ci sono santi che percorrono i secoli. Questo è vissuto nel 1500-1600 e ha lasciato un segno, tanto che diversi ordini religiosi, soprattutto femminili, anche maschili, si ispirano a lui. I vincenziani, le vincenziane. Volevo dirvi però due parole, invitandovi, se volete, andare ad approfondire voi, a cercare, perché è una scuola, ed è una scuola anche gustosa, la vita dei santi. Non è noiosa. Non è una di quelle prediche che magari noi sacerdoti facciamo e che uno va fuori e non ricorda più niente. Quando uno prende in mano la vita di un santo, si ricorda e come. Allora, lui è nato, dicevo, nel 1581, da una famiglia contadina modestissima. Tant'è vero che suo papà avrebbe voluto che facesse il prete per poter portare a casa qualche soldino, perché i preti a quel tempo erano una categoria abbastanza quotata, che sbarcavano bene il lunario. E infatti anche lui, crescendo con questa mentalità, ha fatto di tutto, ha sgomitato per avere un posto a corte del re e della regina, no? E era come a capo della elemosineria della regina. Ma a un certo punto Dio entra con la sua grazia e lo converte. Sarebbe bello conoscere tutta la sua vita. È stato anche sulle galere. Le galere erano navi alle quali stavano i galeotti, legati al remo. Per cui se la nave veniva colpita e affondata, andavano giù insieme anche loro. Noi, amici, conoscere un po' le cose ci fa capire che non viviamo in un mondo poi così brutto, e dovremmo ringraziarlo. Assieme alle lamentele che innalziamo verso Dio, dovremmo ringraziarlo di tutto il cammino che l'umanità ha fatto, no? Comunque lui si accorge che non può vivere tutta la vita in mezzo al fasto della corte. La grazia di Dio lo converte e lui torna a fare il parroco in un paesino da niente, e lì comincia il suo fiorire. Si accorge che c'è la povertà nella povera gente. Nei villaggi rurali, nei villaggi c'è tanta miseria. E allora, con l'aiuto di una grande donna, Luisa de Marillac, che divenne santa anche lei, perché accanto a un grande santo c'è sempre una grande donna, una grande santa, sempre, fonda un istituto di suore, le Figlie della Carità. Ma qui bisogna dire una parola, perché fino a quel tempo, siamo nel 1633, le suore vivevano in convento. Convento vuol dire luogo chiuso, dove vivevano una vita isolata. Non c'erano le suore di vita attiva come oggi noi, suore che lavorano negli oratori, coi giovani, addirittura coi tossicodipendenti, suore missionarie. No, non esisteva questo. È lui che comincia a fare uscire le suore dai loro conventi. Ci sono delle frasi bellissime che vi voglio leggere. Fonda delle figlie della carità religiose di nuova concezione che come monastero non hanno più le mura chiuse, ma hanno le case dei malati, come loro cella in cui si ritirano a meditare e pregare. Non hanno più una cella di convento, ma una camera in affitto. Come cappella non vivono più tra di loro nel convento. La loro cappella è la chiesa della parrocchia, in mezzo all'altra gente. Come chiostro, le vie della città e le sale degli ospedali. Forse le avrete incontrate anche voi gli anni spassati in qualche ospedale, le figlie della carità di San Vincenzo. E così fonda anche poi un istituto di preti per andare a fare le missioni al popolo. I signori della missione, detti lazzaristi, muore venerato come il padre dei popoli, il padre dei poveri. A me piace tanto leggere la vita dei santi, però quando chiudo il libro dico: e io? È stato così che da giovane adolescente, leggendo la vita di San Francesco e di Don Bosco, mi sono sentito chiamato anch'io a dire: e se cercassi di imitare anch'io qualcosa? E a quel punto ho cominciato a sentire che il Signore mi chiamava e mi diceva: Ambrogio, ma cosa vuoi cercare nel mondo? Una donna? Ma sì, le donne sono belle, sono brave, ma sono fatte di terra come te. Io sono l'infinito, io sono il tuo Dio. E quando il Signore ti chiama, ti innamora. Allora io mi chiedevo: io cosa posso fare di fronte a questa grandezza, a questo gigante della carità, San Vincenzo de Paoli? E posso solo dire: Signore, riempimi dei tuoi doni, perché per quanto io cerchi di darmi da fare per i poveri, per i bisognosi, sì, qualcosa riesco a fare, forse. Ma se il Signore ti mette dentro lo slancio, se il Signore ti mette dentro il fuoco, io credo che Madre Teresa di Calcutta non era semplicemente una che diceva: vediamo cosa posso fare di buono oggi. Era un treno lanciato. Vincenzo de Paoli era un ciclone lanciato. O Signore, dona a me, a questi miei parrocchiani e a tutti coloro che si riferiscono al Vangelo, donaci tu uno slancio, perché noi da soli possiamo fare poco.